Mi viene in mente una striscia disegnata da Quino poco più di 30 anni fa e pubblicata su una rivista che, se non vado errato, si chiamava Il Mago. Si comincia con un letto, con uno che dorme di schiena, tutto bello rimboccato sotto le coperte. Sta sognando un omino che si trova in una paurosa galleria sotterranea che avanza con preoccupazione da un anfratto all'altro, di corridoio in corridoio, fino a quando, svoltando da una curva, si imbatte in un omone mostruoso. Allo shock si sveglia il dormiente e tira un sospiro di sollievo. Per fortuna era solo un sogno. Si alza e ci accorgiamo che l'omone mostruoso è lui. L'omino sperso nella paurosa galleria era il sognato, il mostro era il sognatore. L'idea dell'inversione dei ruoli canonici per smascherare quanto di pregiudiziale vi sia nel modo con cui guardiamo le cose del mondo è un'idea classica. Un suo caso particolare è quello del narratore che racconta del mistero di un delitto e che alla fine risulta essere stato commesso proprio da lui. Fra gli altri ci si sono esercitati Chekhov, Chesterton e Agatha Christie, ovviamente. Nel suo primo film, quello del 70, L'uccello dalle piume di cristallo, Dario Argento tira in lungo un dubbio percettivo del suo protagonista. C'è qualcosa che continua a sfuggirgli, non ricorda bene cosa, probabilmente questa cosa potrebbe risolvere il caso. Alla fine salta fuori dal ripostiglio della mente e nella medesima scena ecco che l'accoltellatore diventa l'accoltellato. L'inversione del ruolo fra i due personaggi è completa. È morto Gino Bartali, ciclista di un'epoca in cui, grazie alla mancanza della persistenza intrusiva della televisione, era ancora possibile compiere imprese eroiche o iscrivere il proprio nome in leggende. I giornali pubblicano una fotografia famosa, quella che scattò Liverani al Tour de France del 52, non so se sul Tourmalet o su qualche altra micidiale asperità. Bartali è dietro a Coppi, a ruota. Entrambi hanno il braccio sinistro alzato dal manubrio. Il braccio di Coppi è orientato all'indietro, quello di Bartali in avanti. La mano dell'uno tiene una bottiglia o una borraccia per il collo, la mano dell'altro ne tiene il fondo. Sono sotto il sole cocente, la strada sale, la fatica immane segna i loro visi. Bartali e Coppi sono stati per anni i nemici per antonomasia. Non mi ricordo come maturò la cosa, ma fatto sta che bene non si sono mai voluti. Questa fotografia in cui l'uno disseta l'altro è diventata in 448 il simbolo dell'affratellamento italico nell'ora suprema, in terra straniera nemici sì ma italiani, nemici sì ma uomini integri, che si guardi e che si ammiri, Coppi che passa la borraccia a Bartali, così per lunghi anni, così ogni volta che questa fotografia veniva ristampata e consegnata alla storia. Poi il 2 gennaio del 1960 Coppi, di ritorno dall'Alto Volta, che a quel tempo era Africa equatoriale francese, è morto a causa di una forma virale con localizzazione polmonare bilaterale, focolai multipli e stato ipertossico, così si disse allora. E anni dopo Bartali cominciò a diffondere l'interpretazione opposta della famosa fotografia. La borraccia non era lui a darla a me, ma io a darla a lui. E oggi che il cuore lo ha piantato in asso, con la fotografia ricircola la sua interpretazione, che in fin dei conti era l'altra delle due interpretazioni possibili, promossa cioè dall'ultimo interprete rimasto vivo. La riguardo per l'ennesima volta. Dalla posizione delle mani non si può capire chi dei due sta passando la borraccia all'altro. Però un particolare non può essere ignorato. No, sono ben visibili i due portaborracce davanti al manubrio e sulla barra diagonale di entrambe le biciclette. E mentre quelli di Bartali sono occupati da due borracce, quelli di Coppi sono vuoti. Logica e buonsenso vorrebbero che l'unico in grado di portare quella borraccia, dunque di passarla a Bartali per dissettarlo, era Coppi. L'inversione dei ruoli, il gran colpo di scena narrativo, insomma, qui incontra qualche difficoltà. Come a ben considerare le cose, incontra qualche difficoltà l'assegnazione dell'evento al repertorio della lealtà sportiva, della solidarietà nazionale e dei buoni sentimenti in genere. La borraccia potrebbe non essere una borraccia, ma una, come dicevo, una bottiglia qualsiasi, offerta da qualche spettatore lungo il ciglio della strada. Bartali ha due borracce, ma non sappiamo se siano vuote o siano piene. Qualcosina dentro ci deve essere ancora, se no non concederebbe il vantaggio al suo nemico di portar su in salita più peso di quanto ne porti lui. Coppi le borracce vuote le ha buttate via per alleggerirsi. Bartali potrebbe fare altrettanto. Ma l'acqua fornita dallo spettatore non è né di Coppi né di Bartali, cioè non è dotazione della guerra che si sta combattendo e dunque può essere condivisa. Sempre che davvero uno di quei due si sia fidato a berla e non l'abbia invece solamente offerta all'altro.